9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi martedì 21 settembre, una giornata topica, importante, su cui si addensano nubi e interrogativi per quello che riguarda il destino, la conduzione operativa della seconda banca italiana. Unicredit, avete sentito al giornale radio su Radio 24 le ultime novità, è convocato alle 18 di oggi un consiglio di amministrazione straordinario di Unicredit. Da un paio di settimane i rapporti tra l'amministratore delegato Alessandro Profumo, uno dei grandi protagonisti del consolidamento bancario italiano nel quindicennio che abbiamo alle spalle, e i soci forti dell'azionariato di Unicredit, che è la seconda banca italiana per asset dopo Banca Intesa ed è contemporaneamente quella che più si è internazionalizzata, più di Intesa, sono sottoposti a delle tensioni crescenti fino alla convocazione di questo CDA d'urgenza, in cui all'ordine del giorno c'è il rapporto tra l'amministratore delegato e il top management. Io dirò solo poche parole iniziali, oggi facciamo parlare gli ospiti e sentiamo anche qual è la vostra opinione su questa vicenda che si è addensata sulla finanza e la banca italiana. È una vicenda che ha innanzitutto, ricordiamolo, importanti anche aspetti internazionali, per via certo del fatto che sotto la guida di Alessandro Profumo negli anni prima della crisi Unicredit è stata la grande banca che più ha intrapreso una duplice strada seguendo il modello internazionale prevalente. Primo, quella di una acquisizione di asset importanti su mercati centroeuropei, tedeschi, orientali, asiatici come il Kazakistan, con acquisizioni che si sono rivelate poi, col senno del poi, però che è sempre facile, anche pagate abbastanza bene. Secondo, perché i tedeschi hanno nella governance della banca e nell'azionariato della banca un ruolo fondamentale, e lo ha anche il presidente tedesco di Unicredit, Dieter Rampl, che in queste ultime settimane si è messo proprio alla testa, per così dire, a coordinare i soci, i grandi soci di Unicredit, che hanno iniziato a esprimere malumori crescenti, prima in maniera riservata, poi in maniera esplicita nei confronti di Alessandro Profumo. Chi sono i grandi soci di Unicredit? Abbiamo innanzitutto le tre fondazioni. Sapete che le fondazioni sono questi azionisti un po' singolari, attraverso i quali però l'Italia ha fatto la privatizzazione delle grandi banche. Sono privati, dice la Corte Costituzionale, ma sono anche pubblici, e fino a poche settimane fa il primo azionista di Unicredit era a tutti gli effetti una fondazione. Le tre fondazioni azioniste sono innanzitutto quella della Cassa di Risparmio di Verona Vicenza, poi abbiamo CRT di Torino e Carimonte, che quindi esprime Modena Bologna. Se non che nelle ultime settimane a crescere le tensioni c'è stata la salita nel capitale di Unicredit dei soci libici, perché al 4,6% detenuto dalla Banca Centrale Libica si è aggiunto un 2,6% acquisito sul mercato dal Fondo Sovrano di Investimenti sempre libico, la Libyan Investment Authority. È chiaro che sommando queste cifre si va oltre il 7% del capitale della banca e quindi diventa a tutti gli effetti il primo azionista. Questione perché secondo lo statuto di Unicredit, in caso di azionariato detenuto da soci collegati scatta un congelamento del voto al 5%, in questo caso siamo al 7%, quindi questione delicata, nel senso che i soggetti sono distinti formalmente, la Banca Centrale Libica e il Fondo di Investimento Libico, ma lo sono davvero, e quindi su questo si attende una pronuncia della Consub. Ma soprattutto i grandi azionisti, le fondazioni, di fronte alla salita nel capitale dei libici, hanno sospettato, e questo diventa uno dei capi di imputazione di essere proprio Alessandro Profumo a cercare una cintura di salvataggio per contenere attraverso capitale libico, che nella storia italiana, ricordiamoci, la loro presenza in Fiat è di solito una presenza silente, non è una presenza che impone ovviamente guide operative, è un solido investimento finanziario, di ricercare attraverso la crescita del capitale libico all'interno dell'azionariato di Unicredit una cintura di salvataggio proprio per mettersi al riparo dalle critiche delle fondazioni azioniste. Queste critiche sommariamente come si possono sintetizzare? Per sua stessa ammissione Alessandro Profumo aveva molto creduto nel modello di intermediazione finanziaria che poi è quello da cui viene la crisi nel modello anglosassone, quello che si chiama distribute, non è il distribute to. Ah, scusate un secondo, perché forse è meglio che io eviti le formule tecniche. Ci sono due grandi modelli di intermediazione bancaria: quello secondo lo quale con i soldi dei depositanti non si fanno acquisti sul mercato e si rivendono prodotti finanziari, e questo è il modello tradizionale, meno utili. Il modello che è imperversato nel decennio precedente è invece l'original to distribute, quello per il quale la banca, con i soldi dei depositanti, eccetera, eccetera, fa molte operazioni finanziarie di trading, si chiama il property trading, e su questo fa moltissimi utili con la finanza. Per sua stessa missione, in due interviste sul Financial Times, Alessandro Profumo disse: abbiamo creduto in quello che era il drive per fare più utili ai nostri azionisti, adesso dobbiamo rivedere il modello operativo della banca. Secondo, nel rivedere il modello operativo della banca, l'anno scorso, due anni fa, Alessandro Profumo, che disse fino all'ultimo giorno, noi non abbiamo bisogno di ricapitalizzarci, siamo a posto, dovette poi subire una ricapitalizzazione che era necessaria, fino a 6,6 miliardi per i soci si è trattato di mettere mano al portafoglio. Terzo, il modello operativo della banca, un modello operativo fortissimamente accentrato che tradizionalmente aveva lasciato poco spazio ovviamente alle fondazioni azioniste, e un modello poi articolato secondo un modulo McKinsey. Il banchiere Profumo viene dalla McKinsey, questo modello S3 molto criticato, che si è poi dovuto tradurre di fronte alla crisi in un modello di banca unica, ma nel frattempo Unicredit ha perso molte quote sul mercato italiano, per esempio sui mutui e così via, e questo agli azionisti non è piaciuto. Sommando queste cose e risultati delle ultime trimestrali che hanno dovuto mettere a bilancio andamenti non buoni, per esempio in Kazakistan, e quindi mettendo sotto frusta nuovamente la politica delle acquisizioni internazionali, le fondazioni hanno iniziato a dire: beh, tu devi un secondo rivedere la governance e avere una maniera più condivisa di guidare la banca, perché noi ti abbiamo retto negli aumenti di capitale, eccetera eccetera, però se adesso ci fai anche lo scherzetto di questi soci libici di cui l'accusa è che se li sia procurati lui, in parole povere, allora le cose non vanno più bene. Alla fine di Trump, il presidente tedesco, e attenzione perché in consiglio di amministrazione ci sono rappresentanti tedeschi di un certo peso, c'è Theo Weigel, l'ex grande durissimo ministro delle finanze tedesco, c'è Bischoff, che è capo del controllo della Daimler, grandissimo gruppo tedesco. I giornali tedeschi insieme a Dieter Ramp iniziano a dire: ora basta, bisogna che noi insieme alle fondazioni azioniste diamo una governance più coordinata. La Banca d'Italia a propria volta chiede formalmente informazioni precise sulla crescita del capitale libico, e le dovrà dare entro la fine di questo mese Unicredit, e dà un'altra, per così dire, botta formale a quel punto all'autorevolezza dell'amministratore delegato. Questa è la premessa alla quale si giunge poi agli sviluppi di questi giorni. Radio Core, l'agenzia di informazione del gruppo Sole 24 Ore, domenica informa tutti la riprendono sul fatto che questa sarà la settimana decisiva. Ieri sera alle 19.44, sempre Radio Core informa che si va verso le dimissioni di Alessandro Profumo. Secondo le indiscrezioni che ieri sera circolavano, Profumo non esclude fino all'ultimo momento di non presentarle e di chiedere per sfida agli azionisti di andare fino all'assemblea, nella speranza che il fronte dei critici si disallinei, anche contando sul fatto che nel capitale della banca vi sono importanti fondi internazionali come BlackRock per esempio, ai quali a quel punto far decidere con libera votazione in assemblea se davvero questo manager bancario, che ha avuto molte colpe, ma le ha riconosciute, è davvero meritevole di essere mandato a casa. Ricordo, per l'intreccio del potere italiano, che Alessandro Profumo è stato tra i grandi banchieri italiani quello che è stato più critico verso gli intrecci di alcuni incroci di capitale decisivi nel mercato italiano. Ha portato Unicredit con una certa durezza e talvolta anche commenti sprezzanti a dire che non era il suo posto, per esempio il patto di sindacato di RCS, ad assumere un ruolo completamente diverso dal passato, per esempio in Generali, e contemporaneamente essere mallovatore della trasformazione in Mediobanca negli anni con Geronzi e dopo Geronzi, che li hanno portato all'assetto attuale con Nagel e Pagliaro, e quindi è un intreccio decisivo del capitalismo italiano. Non ci sono solo le fondazioni, ci sono anche grandi azionisti privati come Maramotti, come Pesenti, che sono allineati con coloro che vogliono mandare a casa Alessandro Profumo. La politica in tutto questo, alla testa delle fondazioni più critiche c'è quella di Verona, e in questi giorni ci sono state dichiarazioni precise del sindaco di Verona che dice: chi sbaglia paga, e noi dobbiamo fare gli azionisti a tutelare la parte che l'ente locale ha nelle fondazioni territoriali. Quindi c'è anche la politica in qualche maniera di mezzo. Il ministro del Tesoro è accreditato sui giornali in questi giorni come preoccupato, Giulio Tremonti, per le possibili destabilizzazioni che per il sistema bancario italiano internazionale ci sono da questa vicenda. Ricordo a tutti che Tremonti, in alcuni passaggi delicati, per esempio il gruppo risanamento e le esposizioni bancarie italiane, è stato molto cauto e ha preferito, quindi, per quanto non sia la politica a decidere, che tutti gli attori di queste vicende ci pensassero molto bene prima di esporre il sistema bancario italiano, che non ha avuto bisogno di salvataggi, a delle polemiche internazionali. Però anche la politica, oltre agli intrecci di potere, è una parte fondamentale di questi sviluppi. Ora, gli ospiti: abbiamo collegato con noi Matteo Colaninno del Partito Democratico, che porta nel Partito Democratico la sua esperienza di imprenditore, di ex presidente dei giovani di Confindustria. Io lo ringrazio. Buongiorno onorevole Colaninno. Buongiorno Torgiannino. Abbiamo Nicola Porro del Giornale, che oggi firma un commento in tre punti, il cui inizio è: comunque un salto nel buio, ma vedremo. Grazie a Nicola Porro, buongiorno. E abbiamo il sindaco di il sindaco Flavio Tosi, che col quale comincerei, se è d'accordo, oltre a salutarlo. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Allora, cosa aggiungere a quello che ha detto in questi giorni rispetto all'appuntamento di oggi, signor sindaco? Ma che avevamo evidenziato un problema, che c'è ancora il problema, perché al di là dell'esito di oggi, il problema vero è che speriamo che qualcuno dica ai libici che si fermano al 5% col diritto di voto, che alla fine quello che noi avevamo evidenziato come un problema anche territoriale, strategico, era anche un problema di natura bancaria e finanziaria, e quindi la riunione di oggi. Nella sua opinione, a chi dice che la politica, perché lei è un politico, gioca un ruolo improprio, lei come risponde? Fa l'azionista, e fino a che l'ordinamento italiano prevede che gli enti territoriali siano presenti nella fondazione, tutela la propria presenza? O in qualche maniera, alla domanda "ma la politica non sta esagerando", bisogna dare anche un'altra risposta? Che pensa? Ma guardi, se mi chiedessero, per fare un esempio, chi dovrà fare, supponendo che Profumo sia dimissionario, chi dovrà fare il nuovo amministratore delegato, non ho più pari idea. A chi assegnare le deleghe non mi interessa, cioè io questione non faccio il banchiere e appunto mi occupo di politica e di pubblica amministrazione. È chiaro che però quando ci sono delle decisioni strategiche che vanno ad incidere sul territorio che io rappresento, parlo, perché su queste vicende non sono mai intervenuto, però sono intervenuto in due casi: quando si propose alla Fondazione Cari Verona di partecipare a quella capitalizzazione che voleva dire comprare le azioni a 3 o 4 volte il loro valore, ed era uno spreco di denaro quasi pubblico, perché dei soldi delle fondazioni è quasi denaro pubblico, e in questo caso, ma non perché, ripeto, voglia infilarmi in questioni bancarie o finanziarie, ma perché l'ingresso dei libici in maniera così pesante vuol dire far entrare dei soci che potrebbero non essere solo con un profilo istituzionale, perché Gheddafi è uno furbo e sveglio e credo che si metterebbe il naso nella governance dell'azienda, e non è detto che l'interesse dei libici sia l'interesse del Verona e del Veneto, e quindi prendo posizione per questo. Sul resto io non parlo, perché ripeto, non faccio il banchiere. Un'ultima domanda: i giornali oggi strologano un pochino, è anche un po' il compito dei giornali, su questa alleanza ipotetica che c'è tra le fondazioni, soprattutto quella Verona eccetera, e l'asse bavarese, insomma, guardando a Rampl, a Bischoff, ai tedeschi, ai giornali tedeschi, a quello che hanno scritto. È una fantasia giornalistica o in qualche maniera è vero che poi questo tipo di pressioni congiunte rispetto all'operato dell'amministratore delegato Profumo hanno anche un sapore, per così dire, rispetto alle tradizionali battaglie di una forza politica come la sua, signor Sindaco? Ma diciamo che sicuramente questo tipo di battaglia è consona, diciamo, a quelle che sono le posizioni della Lega, cioè battaglia a favore del territorio, e quindi per mantenere in questo caso una grandissima banca nazionale legata al territorio. Credo che a questo si sia aggiunto il malumore di tanti soci occidentali, in particolare tedeschi, che hanno visto qualcuno entrare. Insomma, se tu hai una banca nella quale sei socio, nella quale hai un certo tipo di responsabilità, e ti trovi dalla sera alla mattina che qualcuno in casa e nessuno ti ha avvisato e qualcuno lo sapeva, è come se tu avessi il custode di casa tua che ti va a entrare uno senza avvisarti, insomma, ecco, più o meno quello che è successo in Unicredit. Forse era meglio evitare di occuparsi troppo da vicino per Unicredit anche di vicende che, insomma, non sono proprio nel core di una banca e non rassicurano molto le fondazioni del territorio, come la vicenda della Roma Calcio. No, quello direi di no, direi che quelle sono questioni su cui si può fare anche un po' di speculazione politica. Io ho semplicemente detto che, per dire, io avevo difeso l'acquisto non tanto della Roma ma dell'Italia Petroli, e se poi nell'Italia Petroli in pancia c'era la Roma era chiaro che doveva andare così. A me aveva dato fastidio il fatto che Unicredit cominciasse a gestire la squadra della Roma, perché quando comincia a acquistare giocatori, a fare campagne acquisti, non direttamente ma facendo da garante, quindi comunque tanto comunque i soldi della Roma oggi sono i soldi di Unicredit. Quello mi aveva dato un po', ma ripeto, è assolutamente marginale rispetto a scenari come quello dei libici. È un rapporto 1-100, insomma, l'importanza di queste due cose. Un'ultima domanda, per far capire chi è a casa che non è esperto di governance bancaria, di come sia l'intreccio tra fondazioni azioniste, una grande banca, consiglio di amministrazione, e lei da sindaco che ha appunto una quota come ente territoriale poi della fondazione. Castelletti, il vicepresidente della fondazione che poi la rappresenta nel consiglio, che cosa fa concretamente quando c'è un consiglio di amministrazione come quello di oggi? Parla con lei prima, parla nel frattempo del consiglio, le dice dopo, non le dice nulla ed è poi il presidente della fondazione l'unico con cui lei ha rapporti a cose fatte? Come funziona in concreto il difficile compito di un sindaco con una fondazione e una banca che si trova in queste circostanze con l'amministratore delegato da mandare a casa oppure da confermare ma cambiando l'operatività della banca? Allora, spieghiamo intanto appunto a chi ci ascolta che questo è un rapporto corretto istituzionale, nel senso che il sindaco ha voce in capitolo in Fondazione Cari Verona, la quale rappresenta appunto anche il territorio. Fondazione Cari Verona è uno dei soci principali di Unicredit, perché non è stata completata la separazione, e per fortuna è stato così, perché per fortuna oggi le fondazioni bancarie riescono a dare un indirizzo importante per far sì, come in questo caso, che la banca non venga scippata al nostro paese, diventi una banca araba, e quindi, diciamo, qui c'è questo nesso causale. Cosa succede in questi casi? Che il sindaco si confronta ovviamente con il presidente Biasi, presidente della fondazione e socia di Unicredit, e si confronta anche, perché lo conosce, perché lo stima da anni, perché rappresenta Verona, il vicepresidente di Unicredit, Gigi Castelletti, ma è un fatto assolutamente normale, perché Gigi Castelletti oggi rappresenta Fondazione Cari Verona nel CDA di Unicredit. Un pronostico, anche se naturalmente mi dirà di no, oggi si sblocca e si cambia? Diciamo che le voci dicono questo, io non so oggi cosa succederà di preciso, ma annullando l'aria mi pare sarà così, però ripeto, la butto lì, è una cosa più da totocalcio. Allora, grazie signor sindaco, temo che ci sentiremo anche nei prossimi giorni. Onorevole Colaninno, l'impressione che ha lei rispetto all'intreccio di potere e al ruolo della politica in questa vicenda invece qual è? È la sensazione di un rischio di una pesante regressione del mercato finanziario italiano, a una decina di anni fa, nel senso che qui è in gioco l'indipendenza del sistema bancario dalla politica e comunque l'indipendenza di fare banca da logiche che nulla hanno a che fare con l'esercizio dell'attività finanziaria. Questo è in gioco, a mio avviso, con il rischio di dimissioni di Profumo che oggi sono sul tavolo del Consiglio d'amministrazione. Non c'è dubbio che le fondazioni abbiano il diritto di esercitare i propri ruoli, così come non c'è dubbio che in una delle principali istituzioni finanziarie italiane ed europee, che ha una capitalizzazione di 40 miliardi di euro e che ha azionisti in tutto il mondo, siano essi libici, italiani, giapponesi o indiani, e credo che i discorsi che il collega Tosi ha appena fatto siano oggettivamente, non discuto nel merito, ma quanto di più lontano dalla logica del mercato e della finanza e delle regole che negli anni 2010 presidiano queste grandi istituzioni. Per cui non c'è dubbio che, sottolineo, le fondazioni facciano i loro interessi, facciano gli interessi del territorio, ma la governance di una banca deve presidiare l'indipendenza della banca. L'alternativa non è unicamente quella di perdere quello che a mio avviso è uno dei migliori manager italiani, ma è di far ritornare indietro agli anni ante 90 il sistema bancario italiano, dove c'era sostanzialmente la politica che indirettamente o direttamente entrava nelle banche e con il risultato che le banche non avevano né la stessa attrattività rispetto agli investitori che hanno oggi, né la stessa redditività. Quindi a me interessa che le banche facciano la banca e che non ci sia il politico di turno che dica all'amministratore delegato, nei modi e nei metodi che ritiene, a chi dare gli affidamenti. Onorevole Colaninno, nella stampa orientata, per così dire, uno degli aspetti, al di là delle sue qualità di manager e di quello che abbiamo ricordato, anche di essere stato più esposto poi alle conseguenze della crisi, ad aver suscitato critiche di Profumo negli anni era la famosa sua partecipazione quando si mise in fila alle primarie, ricorderà, no? del PD. Da questo punto di vista, siamo ancora non troppo maturi per accettare che poi un banchiere sia anche un cittadino e faccia quello che ritiene più opportuno senza che questo poi si debba tradurre in una critica al suo operato di manager bancario, oppure in qualche maniera era qualcosa che era meglio che evitasse, perché poi a un certo punto si accendono, per così dire, delle critiche che poi al momento buono si riconducono come un filo a diventare tagliente come quello di una spada? Lei che pensa? Ma io penso che le primarie di Profumo verso il PD non c'entrano nulla, non c'entrino nulla o quasi, ma diciamo, spero che non c'entrino assolutamente nulla con quello che sta avvenendo. Quello che sta avvenendo è un problema del top management con i principali azionisti che oggi governano la banca, con il presidente del consiglio d'amministrazione, con gli azionisti che rappresenta il presidente, e non c'è dubbio anche con l'ariete che ha rappresentato e che hanno rappresentato le dichiarazioni dei principali esponenti della Lega che in tempi non sospetti hanno dichiarato esplicitamente di volere occupare le banche. Questo è il fatto, non credo che c'entri nulla il fatto che un cittadino italiano si metta in fila a scegliere le primarie di uno dei due partiti. Un'ultima domanda, perché so poi che ha un impegno televisivo. Nella sua esperienza per il gruppo internazionale, in cui insieme con suo padre che avete messo in piedi, se dovesse immaginare una situazione nella quale, per esempio, a Deutsche Bank ci fosse un presidente italiano con consigliere d'amministrazione italiano e il presidente italiano con i suoi consiglieri d'amministrazione, ma di minoranza assoluta, si mettessero a organizzare, per così dire, e a condividere le ragioni del critico, dei critici verso Ackermann, il capo insomma di Deutsche Bank, e diventassero protagonisti di questa vicenda, pur non essendo noi nazionalisti, siamo per l'apertura del mercato. Ma lei immaginerebbe che in Germania un presidente italiano con soci di minoranza italiana riuscirebbe a fare qualche cosa di analogo che sembra invece essere in grado Dieter Ramp, Bischoff, di fare in questi giorni e in queste ore proprio a Unicredit? Sarebbe accettato con la stessa normalità? Siamo diventati forse più aperti alla globalizzazione di tutti gli altri grandi paesi europei, oppure c'è qualche cosa su cui interrogarsi anche su questo aspetto della vicenda? Ma guardi, molto semplicemente io credo che ad esprimersi in un momento come questo debbano essere gli azionisti, e così come lei ha sottolineato, nella mia esperienza diciamo precedente al Parlamento in una vicenda importante, che è stata importante per la vita finanziaria italiana, e cioè l'operazione l'OPA di acquisto e scambio su Telecom Italia, dove c'erano alcuni azionisti, il cosiddetto nocciolo duro, che si opponeva ad una offerta, mentre diciamo la pluralità dei fondi ha deciso in assemblea che quell'offerta doveva andare avanti. Ecco, io vorrei che fosse il mercato e gli azionisti tutti, a decidere su chi deve governare Unicredit, e quindi penso che siano gli azionisti nelle sedi proprie degli azionisti a decidere, e quindi non nei comitati esecutivi dei patti espliciti o impliciti, a decidere su chi debba governare una banca. Quindi chi è per il mercato lo faccia fino in fondo e faccia decidere agli azionisti, perché non è detto che i fondi siano d'accordo con le decisioni che sembra aver preso il presidente della società. E quindi in quel caso si andrebbe in assemblea, e lo showdown sarebbe appellandosi a tutto il capitale che si presenta in assemblea. È uno degli scenari ancora aperti, vedremo più tardi nel pomeriggio come maturerà, se sarà questa l'ipotesi o se invece andiamo, come scrivono molti giornali, alla consegna delle deleghe nelle mani del presidente. Banca d'Italia è accreditata per volere una soluzione operativa senza interregni, e Banca d'Italia però dall'altra, con la sua richiesta formale di informativa, ha obiettivamente consolidato le critiche che venivano dalle fondazioni nei confronti dell'amministratore delegato. Dall'altra parte sui giornali avete letto di un Tremonti che tradizionalmente aveva una specie di dubbio sul modello di Profumo, e però leggete anche che Tremonti è preoccupato per le conseguenze di quello che sta avvenendo. Difficile davvero per chi sta da fuori capire dove sia davvero la verità in queste contrapposte letture. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando del caso Unicredit in attesa del consiglio di amministrazione di oggi alle 18. Nel frattempo a Piazza Affari il titolo lima le perdite, ma siamo, rispetto a un'apertura che era con il future sotto addirittura al 4%, poi 4, poi meno 3, adesso siamo al meno 2,8 qualcosa, quindi il titolo è su 1,863 euro. Naturalmente questo, ricordiamo che nel pre-crisi il titolo era sopra i 6 euro, quindi questo dà le dimensioni di una delle ragioni, poi anche non secondarie, che viene imputato come critica ad Alessandro Profumo, gli strepitosi meriti negli anni pre-crisi, ma diciamo tra quelli che poi con i risultati dell'ultimo anno e mezzo e anche poi chi ha recuperato meno rispetto al più che aveva avuto come esposizione per il modello gestionale, operativo proprio, e di fonte di maggiori ricavi da attività finanziaria rispetto ad altri modelli bancari, anche di grandi banche, anche della stessa Banca Intesa nel nostro paese. Allora, procediamo adesso con gli osservatori. Abbiamo sentito i politici, abbiamo Nicola Porro e abbiamo Orazio Carabini, che entrambi oggi sui loro rispettivi quotidiani, quindi sul Giornale per Nicola Porro e sul Sole 24 Ore per Orazio Carabini, hanno firmato due fondi che interpretano la vicenda. Nicola, oggi in tre punti tu dici, dai un giudizio all'inizio, dici è comunque un salto nel buio, quindi vediamo cosa succede. In generale la faccenda libica è un po' una scusa, è altra la ragione, e la politica è comunque molto preoccupata e ha le sue buone ragioni per l'instabilità, e la terza è che cambierà qualche cosa anche in intrecci rilevanti come Mediobanca e RCS. Quando dici un salto nel buio, dici che era meglio evitarlo? Beh, intanto fatti fare un complimento per Oscar, perché insomma noi domenica ci siamo messi tutti quanti a lavorare per lo scoop che avete fatto voi della radio, che è una cosa che se vi mettete anche voi a fare scoop della finanza non abbiamo più vita facile noi dei quotidiani, perché siamo ritornati tutti a lavorare perché domenica era uscita la vostra notizia sulla possibile fuoriuscita di Profumo in larga anteprima. Vabbè, comunque lasciamo perdere i vostri scoop e andiamo sulla questione che mi hai chiesto, che mi sembra più sostanziale dal punto di vista di oggi, dei mercati che stanno vivendola. Beh, la sostanza è una sola, è che queste banche italiane, soprattutto Unicredit, vivono in un equivoco pazzesco, perché io ho sentito con attenzione sia Colaninno sia Tosi. Colaninno dice facciamo parlare gli azionisti, e Tosi però in fondo, fino a prova contraria, tale è. Certo, può non piacere a Colaninno perché è un azionista politico, e può non piacere anche a me, anzi sicuramente non piace a me che gli azionisti siano politici di qualsiasi colore essi siano, però fino a prova contraria, anche se in maniera un po' indiretta, lui è azionista della banca e quindi la sua la potrà pure dire. Perché il salto nel buio di cui parlo? Beh, il salto nel buio è perché insomma è una cosa di buon senso e banale. Se una banca ha 1.000 miliardi di attività, come c'è Unicredit, capitalizza 40 miliardi, togliamoci il 3% di oggi, ma insomma siamo poco sotto i 40 miliardi di euro, è presente in 22 paesi, deve lavorare a decine di migliaia di persone, beh, forse l'idea di avere un amministratore delegato operativo che sia sempre sul pezzo vi è più se questa banca è alla vigilia di una trasformazione organizzativa come quella della bancona, come l'hanno definita loro, beh, secondo me è il minimo che si possa richiedere, questo sì, a un consiglio d'amministrazione e degli azionisti. Insomma, non vorrei che si replicasse la questione dello sviluppo economico in cui manca un ministro da mesi e mesi, perché non è neanche paragonabile, e qua sarà forse un po' paradossale, quanto è più importante l'amministratore di Unicredito di quanto sia invece importante un ministro dello sviluppo economico che più o meno ha potuto distribuire le sue deleghe e le sue funzioni ad altri. E qui manca, se dovesse dimettersi oggi Profumo, la guida strategica e operativa della principale banca italiana, anzi la seconda, perché Intesa la principale, ma è una delle principali, la seconda europea. Questo è il salto nel buio di cui mi lamentavo. Seconda questione fondamentale, Banca d'Italia, quando Mediobanca, che non è neanche paragonabile come peso all'interno della società italiana, diciamo operativo, aveva due funzioni, come si dice, apicali nel dottor Pagliaro e nel dottor Nagel, disse, beh, insomma, mettetevi d'accordo perché uno solo di questi due deve comandare in banca, ma non perché vogliono il dittatore operativo, ma perché vogliono un solo responsabile delle scelte di organismi complessi. E quindi la Banca d'Italia vi è più può essere preoccupata per una banca come Unicredit che si trova oggi forse con quattro grandissimi manager ma senza un sostanziale decisore. Ultima questione, il salto nel buio è perché questa roba dei libici è una balla colossale. Punto primo, perché il motivo sostanziale è completamente diverso rispetto all'ingresso di Libici, in cui Profumo non è che poteva alzare la mano e dire scusate mi stanno scalando ai suoi soci, perché avrebbe fatto un illecito penale secondo il testo unico bancario, c'è proprio una norma che prevede che questo non possa farlo. Punto secondo, perché sono 18 mesi che si sono inclinati, e qui se ci sarà tempo ne potremo parlare, i rapporti tra Profumo e i suoi azionisti. Quindi la questione libica è stata una scusa sulla quale ovviamente la politica, una certa politica, si è anche divertita a menare le danze, ma è stata una scusa sostanziale, con tutto rispetto nei confronti di Tosi e anche dei governatori leghisti che peraltro abbiamo intervistato tante volte, ma la scelta questa volta nel cadere di Profumo è stata fatta da una nomenclatura delle burocrazie delle fondazioni che preesiste alla Lega e che ha sempre supportato nel bene o nel male Profumo, che oggi gli è venuta meno. Quindi se noi ci raccontiamo la balla che stava diventando una banca araba e per questo alcuni politici molto attenti al territorio hanno fatto fuori Profumo, non capiamo il vero gioco che si è fatto all'interno della banca, e cioè che dopo 15 anni Profumo non soddisfaceva più degli azionisti che avevano la necessità di fare soldi con la banca. Va bene? Cosa che invece negli ultimi due anni questi azionisti non hanno fatto, ed è legittimo questa prerogativa degli azionisti. Perciò non so se ho dato, non si può dare un'idea netta di quello che è avvenuto. Si può dire che siamo in un salto nel buio e si può dire che c'erano delle ragioni degli azionisti, ma quello che è sicuro è che noi non possiamo permetterci, se fossimo azionisti di Unicredit, di pensare che la banca sia gestita dal signor Dieter Ramp e da quattro vice deputy CEO. E questo è una cosa che capisce, penso, anche un bambino. Certamente. Eccoci tornati in studio, il caso Unicredit. Orazio Carabini, chiedo, traendo spunto da quello che oggi ha scritto, il titolo del suo editoriale è Il richiamo della foresta clientelare. Carabini si interroga proprio sui rischi che le fondazioni, con questo suo ruolo così iperattivo, non certo di investitori finanziari e silenti, tornino inevitabilmente a rappresentare un cavallo di Troia della politica in questa grande banca, e si pone il problema. È proprio impossibile a questo punto nel nostro paese immaginare che il modello che Profumo ha incarnato, cioè il modello di amministratore delegato che in realtà si comportava alla testa di una grande banca internazionale con forti soci esteri, fondi nel capitale diffuso, come una public company, dicendo io rispondo direttamente a tutti, agli azionisti certo di maggioranza ma anche a quelli di minoranza, non c'è un vero e proprio patto, non è una popolare, non è una cassa di credito cooperativo. Questo modello tramonta se Profumo va a casa, e cosa c'entra davvero la politica? Carabini. Dunque, il rischio che il modello tramonti con l'uscita di Profumo da Unicredit esiste, non esiste solo per Unicredit, purtroppo. Profumo nella sua carriera ha sicuramente commesso degli errori, come ricommettono tutti i manager, uno dei quali, tra l'altro, a proposito di politica, secondo me è stato quello di farsi vedere in coda per votare alle primarie dell'Ulivo. Detto questo, però, ha anche un merito che gli va riconosciuto, che è quello di sapere dire di no, a differenza di molti suoi colleghi. Sebbene abbia smussato molto gli angoli del suo carattere, la sua rigidità, a partire, diciamo, dal 2007, quando ha fatto la fusione con Capitalia, e ancor più con la crisi finanziaria del 2008, quando, insomma, tutti i banchieri erano sì un po' bastonati, anche Unicredit ha pagato lo scotto della crisi molto in seguito all'acquisizione tedesca, che guarda caso oggi sono i tedeschi tra i suoi maggiori critici. Detto questo, ancora una volta, Profumo è stato capace di dire di no, e il logoramento dei rapporti con i suoi azionisti principali, tra cui le fondazioni, hanno avuto un ruolo prevalente, deriva, a mio modo di vedere, da questo, ed è questo che puntano a modificare le fondazioni. Il mio timore è che più che ai risultati economici guardino anche all'erogazione del credito e quindi a soddisfare i fabbisogni di chi ritiene di essere penalizzato da una gestione più attenta al rischio. Noi avevamo letto in queste settimane che per effetto di Basilea 3, i nuovi coefficienti di capitali di cui tutti temono gli effetti sulla restrizione del credito ulteriore e così via, uno degli effetti era quello che per le fondazioni sarebbe stato da mettere in conto un'ulteriore diversificazione rispetto a concentrare il proprio patrimonio nelle quote di controllo delle banche e diversificare. Mi pare al contrario che in questo la vicenda di Intesa Torino, quella di qualche mese fa per capirci, Siniscalco Benessia, finita con Suor Germana alla fondazione azionista di Intesa a Torino per una chiara reazione da parte del management che si è difeso dalla fondazione, dal sindaco di Torino, sbaragliandolo in quel caso. E però, sommata a questo effetto qua, invece, anche che si crea se oggi finisce come tutti quanti stiamo immaginando, sia quello di un singolare contrasto. Da una parte c'è una grande banca italiana in cui se le fondazioni si disallineano rispetto al management gli si taglia la testa. Adesso sto andando per sintesi estrema, non ti attribuisco questo giudizio, Razzo. Dall'altra invece le fondazioni in questo caso riescono nella loro operazione. Da che cosa dipende? Senza entrare nel merito, ma per far capire a chi a casa. Sono due modelli diversi in cui un'autoreferenzialità porta risultati, Intesa, maggiori che in Unicredit, oppure è semplicemente un manager diverso, più lontano dagli intrecci, Profumo che paga il conto, e invece un pochino più banca di sistema, come si dice nella logica di Intesa, e in questo quindi più capace anche di controllare i rapporti con gli azionisti e con la politica. Ma intanto il discorso di Basilea 3 resta valido, cioè le fondazioni, quando, come sarà necessario, ci sarà bisogno di capitali freschi nelle banche italiane, sia pure in misura non particolarmente preoccupante, non saranno in grado di fare la loro parte, almeno così si attendono tutti gli analisti. Quindi ipotizzare una loro diluizione, cioè una loro riduzione di peso nel controllo delle grandi banche italiane è del tutto legittimo. Detto questo, in questi mesi abbiamo assistito a una ripresa, a un alzare dei toni delle fondazioni nel loro ruolo di soci delle banche, sia in Banca Intesa sia in Unicredit. Questo potrebbe anche spiegarsi in questo modo, se non è il peso delle mie azioni che mi dà la forza, cerco di farlo facendo valere quello che mi resta nei miei diritti di socio, che è pur sempre di maggioranza relativa in un capitale molto frammentato. Nicola Porro, se dovessi esprimere un'opinione non di tifo personale, perché non stiamo parlando di questo, ma per un po', per come conosciamo Profumo, pensi che l'ipotesi di fare appello all'assemblea e di dire a tutto il capitale votate voi e vediamo davvero quanto pesano le fondazioni è una cosa che potrebbe essere nelle sue corde e possiamo permetterci quella ulteriore cosa, o è meglio augurarsi una soluzione diversa? Temo che ormai sia necessario augurarsi una soluzione diversa, cioè, e penso che lo stesso Profumo non arriverà a una soluzione di questo tipo. Profumo è stato un ottimo manager, è stato 15 anni nella banca, il numero uno, non bisogna mai dimenticarlo, perché sono tanti anni, per cui insomma gli alti e bassi ci sono, e anche un certo logoramento e anche l'idea di poter far tutto da soli. Ha cambiato più presidenti Profumo di quanto uno possa cambiare. È vero, è una lunga pagina, quindi insomma gli va riconosciuto che non è proprio una cosa che non si sia visto all'opera. Ma io dico che Profumo ha dei meriti, anche se ha sbagliato molto e ha creduto in un modello di intermediazione che poi ci ha regalato altrove, ma ce l'ha regalata poi nel mondo la crisi. Io penso che le fondazioni dovrebbero stare molto attente a non diventare così attive. La politica in questo c'ha di che riflettere, di come ha fatto il consolidamento bancario. È chiaro che se paga un manager che diceva non è il mio compito stare in RCS in generale eccetera eccetera, qualche cosa vorrà dire. Non siamo forse così aperti ai mercati come poi amiamo raccontarci. Vedremo alle 18 di oggi, continueremo a informare su questo. Radio Core e Radio 24 saranno sul pezzo come sempre. Io ringrazio Nicola Porro, Orazio Carabini, come ringrazio Flavio Tosi e Matteo Colaninno, e ringrazio in regia Carmelo Lauricella e Valerio Rocchetti, e in redazione l'insostituibile Alessandro Marco Turbi. Appuntamento a domani, Linea Giornale Radio.